9 in punto. Buona giornata, cari ascoltatori, da Simone Spezia. Come già vi accennavamo nell'anteprima, oggi ci occupiamo dei lavoratori indipendenti, di quelli che rappresentano il 23% dell'occupazione italiana e sono piccolissimi imprenditori, i cosiddetti lavoratori della conoscenza, i professionisti, ma non solo naturalmente, i commercianti, gli artigiani, e che al momento, e lo testimoniano anche i messaggi che mi state scrivendo in questo momento su Twitter, sembrano completamente ignorati dalla politica, o almeno da gran parte della politica. Oggi un pezzo proprio su questo tema, in parte su questo tema, sul Corriere della Sera, a firma Dario Di Vico, racconta di questo incontro tra gli imprenditori della provincia di Treviso e Beppe Grillo e quanto Grillo stia cavalcando quest'onda nelle piazze, mentre insomma dalle altre parti politiche, dai partiti tradizionali, quelli che facevano del cosiddetto popolo delle partite IVA la loro base elettorale o un pezzo della loro base elettorale, invece non si sente quasi parola. E dunque saluto proprio Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno Dario. Buongiorno. Saluto anche Costanzo Ranci, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, è docente di sociologia economica al Politecnico di Milano ed è più che autore, coordinatore, curatore del libro Partite IVA, il lavoro autonomo nella crisi italiana, che è appena uscito e che fa una disamina molto interessante dal punto di vista sociologico proprio di questo mondo. E saluto anche Anna Soru, presidente di ACTA, l'associazione dei consulenti del terziario avanzato. Buongiorno Soru. Non ci sente in questo momento? Buongiorno, eccola qua, perfetto. Allora, Dario Di Vico, io partirei proprio con te perché è da un altro tuo articolo che abbiamo preso spunto, questo Partite IVA, gli 8 milioni silenziati dalla politica, uscito la settimana scorsa proprio sul Corriere della Sera, e poi naturalmente dal libro di Ranci, al quale ho avuto modo di dare un'occhiata nel corso di questa settimana. Vi ricordo l'800 24 00 24 per intervenire in diretta, 9 in punto col 9 scritto a lettere, l'hashtag su Twitter, oppure se volete scrivete direttamente a me, Simone Spezia, mi trovate. Allora Dario, che cosa è successo? Il messaggio che sta rivolgendo la politica, o almeno quella tradizionale per così dire, al popolo delle partite IVA, al cosiddetto popolo delle partite IVA, non c'è in sostanza? Beh, diciamo che c'è imbarazzo, afasia. C'è una difficoltà di avanzare proposte credibili, perché il popolo delle partite IVA è stato uno degli elementi di retroterra sociale del blocco Bossi-Berlusconi, per capirci, insomma, e ha, come su quel blocco si sono riversati ampissimi consensi da parte del mondo, appunto, soprattutto non metropolitano delle partite IVA, perché poi c'è una differenza su Milano, no? Non a caso, come dire, il mutamento elettorale intervenuto nelle elezioni per le comunali di Milano ha favorito la vittoria di Pisapia grazie anche a questo tipo di voto. Quindi diciamo, appunto, c'è una fasia, perché dalle coccole di carattere elettorale poi non si è passati ad un programma preciso. Faccio un esempio banale, no? Io sostengo da tempo che andrebbero realizzate delle case delle partite IVA, intese come dei contenitori di servizi in cui il singolo professionista possa andare lì affittando, pagando i servizi, però avendo un ambiente, come si usa dire, di co-working. Beh, nonostante, come dire, in tutto il nord la Lega e il PDL, come dire, abbiano centinaia di sindaci, non c'è stato un posto in cui sia nata una casa della partita IVA, un progetto di questo tipo, per dire una cosa concreta, ecco. questo, diciamo, il discorso generale, e verrei però anche a quello che ho letto oggi sempre in un tuo articolo sul Corriere della Sera, perché è una cosa che mi ha colpito molto, perché quando parliamo di partite IVA parliamo, come si diceva, di un mondo composito, no? Un mondo che tiene dentro, come si diceva, i cosiddetti lavoratori della conoscenza, i professionisti, tiene dentro anche naturalmente i piccolissimi imprenditori, quelli che sono stati anche il cuore del nostro boom economico e che adesso, lo abbiamo anche raccontato qua da questi microfoni, lo sapete, con la nostra iniziativa Disperati Mai, sono stati dimenticati. Allora, mi è capitato l'altro giorno, per, forse l'ho già detto, anche per una questione di curiosità professionale, banalmente, di essere a Padova al comizio di Beppe Grillo, a questo Tsunami Tour. Ebbene, ho raccolto una voce che da questo punto di vista mi sembra interessante sull'attenzione che il Movimento 5 Stelle sta rivolgendo a questo mondo. Perché hanno capito che il Movimento 5 Stelle è solo loro falsariga, ci hanno dato consigli, li abbiamo accettati, li abbiamo messi dentro, e se volete mi andate a leggere, me li leggo io. Attribuzione del Made in Italy solo aziende che producono in Italia, basta questa finta del Made in Italy a farlo. Qualche francese, crediti dallo Stato in pagamento entro 60 giorni, entro 60 giorni, siamo in arrivo dalla Sicilia, i pescatori, la più grande flotta d'Italia, Mazzara del Vallo, deve usare le reti che gli obbliga l'Unione Europea a maglia larga, perché a nord dell'Europa pescano lo storione e a maglia larga lui deve pescare il gamberetto fa lo slalom della rete. Non può pescare il tonno perché è proibito, arrivano i pescherecci giapponesi, lo portano via tutti, sono pronti con le fiacine. E gli agricoltori prendono 1.800 euro dall'Unione Europea per trapiantare la vigna del vino siciliano e metterci la vigna francese. C'è una paranoia in giro, c'è qualcosa di metafisico che non si riesce a capire. Io voglio ridiscutere tutte queste leggi, le voglio ridiscutere. Io voglio un protezionismo nella mia agricoltura, nell'artigianato, nella piccola e media impresa. Voglio proteggerla. Che costi quello che costi. Ed eccolo qua, voglio un protezionismo per l'artigianato, la piccola media impresa, costi quello che costi. Costanzo Ranci, lo ripeto, curatore del libro Partite IVA, il lavoro autonomo nella crisi italiana. C'è la politica, quella vecchia per intenderci, che fatica a correlarsi con questo mondo? Sì, sicuramente, perché questo mondo è cambiato moltissimo negli ultimi 10 anni, 15 anni. E in più naturalmente la crisi ne ha svelato tutte le debolezze, le difficoltà, quindi il problema della politica oggi è quello di rimettersi in sintonia con i problemi, i vissuti, le difficoltà di questa realtà che è molto, come abbiamo già detto, composita e frammentata e non è più sicuramente oggi riassumibile nell'etichetta del popolo delle partite IVA. E dovessimo descrivere qual è il punto nodale di questa crisi, di questa crisi delle, l'abbiamo detto, lo chiamiamo popolo delle partite IVA ancora perché fondamentalmente ci sta più comodo a livello giornalistico, ma non è più questo. Lei parla, si parla nel libro della rottura di quello che viene definito un contratto sociale, basato fondamentalmente per il lavoro indipendente sulla tolleranza fiscale, perché anche di questo si parla, però con tutele sociali più deboli. Si è rotto questo contratto sociale, quindi? Ma questo contratto sociale è stato sicuramente il protagonista dello grande sviluppo, diciamo, degli anni 80-90 nel nostro paese, di alcune componenti delle partite IVA, tra cui sicuramente i piccoli imprenditori, ed era fondata appunto su una tolleranza fiscale da un lato e sull'altra da un certo regime appunto di tipo protezionistico, a cui oggi vedo anche Grillo si rifà come logica. Questo contratto in qualche modo si è dissolto perché oggi la sostenibilità finanziaria è diventata molto difficile per la crisi economica che attraversiamo e perché in realtà negli ultimi 10 anni la competizione e le liberalizzazioni che hanno interessato larghe parti di questo mondo hanno in qualche modo reso molto più difficile e anche molto più debole la protezione specifica delle singole categorie. Oggi si tratta di reinventare tutto fuori dai protezionismi e trovando una qualche forma di equità, in modo che la maggior richiesta fiscale e contributiva possa andare insieme a qualche forma di protezione sociale, di tutela sociale per quegli individui che, o per quelle partite IVA che sono in difficoltà per la crisi, o di sostegno per chi vuole reggere e deve imparare a reggere la sfida della competizione, che naturalmente è sempre più globale. Anna Soru, presidente di ACTA, l'associazione dei consulenti del terziario avanzato, e che quindi rappresenta una parte di questo di questo gruppo, insomma, di lavoratori indipendenti, la parte forse più metropolitana, Soru, nel senso che intendeva Di Vico. Come leggete voi questa situazione, questa fase? Noi siamo quella parte, quella componente del lavoro autonomo che non è mai stata beneficiata da alcun contratto sociale. Lavoriamo prevalentemente per le imprese, per la pubblica amministrazione, siamo informatici, pubblicitari, formatori, ricercatori e lavorando con la pubblica amministrazione e con le imprese possiamo essere pagati soltanto dietro emissione di fattura, quindi per noi il discorso dell'evasione è sempre stato un discorso assolutamente chiuso, così come non siamo mai stati destinatari di alcun incentivo perché in realtà la politica non ci ha mai coccolato. Per tanto tempo ci ha ignorato, a un certo punto si è resa conto che esistevamo con l'istituzione della gestione pensionistica separata e da quel momento ha capito che potevamo rappresentare una risorsa. Hanno attinto tantissime volte a noi ogni volta che c'era bisogno di soldi. Le ultime volte è successo con l'accordo del welfare, con il provvedimento per l'apprendistato e l'ultima con l'ultima riforma del lavoro in cui i nostri contributi pensionistici sono stati elevati ancora una volta per poter pagare, fra le altre cose, l'ASPI e quindi sempre per pagare dei servizi per altre categorie che non riguardano noi. Noi ci troviamo a questo punto, infatti, che dobbiamo versare per la pensione il 27% dei nostri contributi, questi contributi dovrebbero aumentare al 33% sulla base dell'ultima riforma, cioè ad un livello che è straordinariamente superiore rispetto a quello che versano gli altri. Gli altri lavoratori autonomi, se facciamo riferimento ai commercianti o gli artigiani, versano il 21%, arriveranno al 24%, ma se facciamo riferimento ad altri professionisti che competono sui nostri stessi mercati, faccio un esempio, un informatico compete con un ingegnere informatico, ecco, l'informatico paga il 27% e pagherà il 33%, un ingegnere informatico paga il 14%, è chiaro che è una situazione che non è assolutamente accettabile, non è sostenibile e ci taglia fuori completamente dal mercato. Voglio prendere le prime due telefonate, sentiamo Filippo che ci chiama da Parma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Guardi, niente, molto semplice, la questione è che ogni parte politica da quando è andata su ai governi ha sempre detto favoriremo lo sviluppo delle piccole e medie imprese, no? Del nostro paese, che sono una realtà importantissima e non si rendono conto che politiche penalizzanti fatte come sono state fatte in questi anni poi tra le altre cose riducono anche quello che è un gettito per lo Stato in termini di tributi e di tasse, vedasi il discorso partite IVA. Allora spiace vedere che effettivamente nei programmi di qualsiasi parte politica che concorre alle attuali elezioni pochissimo spazio sia dato appunto al popolo delle partite IVA e a quelle che possono essere effettivamente i rimedi, diciamo, le prospettive e le linee programmatiche di un rilancio del settore. Spiace davvero perché viene la tentazione di non andare neppure a votare. Fabrizia ci chiama da Verona. Sì. Io vorrei fare una provocazione, mi creda, però senza polemica, e la mia è una semplice domanda, ma la politica non è che ha abbandonato questo settore forse perché è qui che si annida gran parte dell'evasione fiscale del nostro paese? Lo dico da lavoratore dipendente che vede molte denunce dei redditi, mi creda, molte. Grazie Fabrizia. Dario Di Vico, è quello che si diceva con Ranci, poi torneremo anche invece su quello, e vorrei tornare proprio con Ranci su quello che ci diceva l'altro ascoltatore in merito a quanto le partite IVA siano il sostegno di questa economia, abbiamo detto delle piccolissime imprese che sono state al centro del nostro boom economico, e nel libro tra l'altro si dà una lettura interessante, cioè non così negativa, di quest'ampia diffusione del lavoro indipendente. Però Dario Di Vico, su quello che dice Fabrizia, insomma, in parte ha ragione, ed è quello che si diceva, cioè la rottura di un contratto sociale che prevedeva la tolleranza fiscale, la tolleranza fiscale è finita. Dario? Ma diciamo che il contratto sociale prevedeva tolleranza fiscale per il lavoratore autonomo e possibilità di essere assenteista per il lavoratore dipendente della pubblica amministrazione. Perché quando si dice lavoratore dipendente, noi dobbiamo spaccare in due questo settore, perché una cosa è nel settore privato, dove evidentemente sono regole di concorrenza, e un'altra cosa è stato nella pubblica amministrazione. Ora, che questo patto, diciamo non scritto, che è poi un patto diciamo di origine democristiana, si sia rotto, e anche perché la pressione fiscale è arrivata a livelli intollerabili, cioè, quindi, come dire, anche se nel passato c'era qualche scappatoia, le cose non tengono assolutamente più. Quello scambio perverso tra, come dire, paghi meno tasse e non avrai pensione è venuto meno, perché se vogliamo, anche giustamente, per l'introduzione degli studi di settore, per un ammodernamento della macchina tributaria, quell'escamotage funziona sempre meno. Teniamo presente però poi che questo vale per i lavoratori autonomi di alcuni settori, non vale ad esempio, come ha già detto Anna Soru, per tutti i lavoratori dell'economia della conoscenza, no? Dove lì non c'è nemmeno questo aspetto, perché essendo lavorando o per amministrazioni o per società private, comunque pagano sempre tutte le tasse. Secondo me evidentemente va ricostruito un ragionamento di coesione che però affronti il problema del welfare, cioè non è possibile che la gestione separata dell'INPS dei parasubordinati serva a ripianare il deficit di altre gestioni, e non è possibile che si prefiguri per queste figure un pensioni da 500-600 euro. Qui termino, l'INPS aveva promesso la busta arancione, cioè di dare un rendiconto in corsa sulla pensione che si stava accumulando, e quindi anche fare delle previsioni, non l'abbiamo ancora vista. Tra l'altro, professor Ranci, questo è il punto di Dario Di Vico, e poi sentiremo la Soro più avanti e voglio sentire altri ascoltatori. Tra l'altro, professor Ranci, a proposito di quello che ci diceva l'altro ascoltatore, no, sulla centralità del lavoro autonomo per questo paese, insomma, il dato che ho fornito prima e che ho preso dal vostro libro, dice che i lavoratori indipendenti rappresentano il 23% dell'occupazione italiana contro il 14% della media europea, quindi vedete che la differenza è amplissima. Un professionista su due indipendente, ossia lavora in proprio, contro una media europea del 18%, quindi vedete che le differenze sono molto ampie. C'è una scarsa attenzione, però si dimentica appunto la centralità, no, del lavoro autonomo nella struttura del nostro paese, anche della struttura del lavoro del nostro paese. Un elemento che è stato spesso criticato, professore, e che in realtà voi dite, insomma, in fondo non è così male, cioè, ha i suoi difetti, ma non è così male, la butto molto giornalisticamente, insomma. Certo, assolutamente. Cioè, gli ultimi dati aggiornati che noi abbiamo è che le partite IVA, cioè comprendendo tutte queste diverse figure, sono il 24%, sono uno su quattro dei lavoratori di questo paese. Però poi un'altra cosa che è importante dire è che ci sono quasi 3 milioni di lavoratori dipendenti che lavorano, come dire, alle dipendenze di partite IVA, cioè in piccolissime imprese. Quindi il complesso di questa fascia di lavoratori rappresenta quasi la metà dei lavoratori delle imprese italiane, se escludiamo da questo conto, diciamo, i dipendenti della pubblica amministrazione. Quindi il non considerare o il non dare rilevanza, il non affrontare i problemi di ordine fiscale, contributivo, ma anche i problemi di mercato, cioè di riuscire a stare nel mercato di questa fascia di lavoratori, significa praticamente ignorare quasi metà del sistema produttivo e del sistema occupazionale di questo paese. È un lusso che oggi non ci possiamo assolutamente consentire. Anche perché, come giustamente lei ha osservato, molti di questi lavoratori non sono affatto, come dire, dei lavoratori che interpretano, come dire, delle sacche di lavoro parassitario o tradizionale, ma in buona parte sono i lavoratori che sono sulla frontiera delle grandi trasformazioni economiche di questo paese. E Anna Soro, di cui parlava prima, in fondo interpreta una base di lavoratori della conoscenza, lavoratori che oggi interpretano i cambiamenti che sono avvenuti nel sistema dei servizi all'impresa, del terziario avanzato, che contribuiscono a rendere competitiva anche su base internazionale la nostra economia. Ci scrivete su Twitter a proposito di quello che diceva la nostra ascoltatrice Fabrizia poco fa, giù dalla torre ci scrive: basta con la storia dell'evasione, non abbiamo malattia, ferie, mentre abbiamo mutui e nessuno ha la villa a Portofino. Insomma, magari qualcuno ha la villa a Portofino ce l'avrà, però insomma il ragionamento almeno genericamente è chiaro. 9 in punto. Ci scrivete che il pagamento entro 60 giorni da parte delle pubbliche amministrazioni è una direttiva europea, non è una proposta del Movimento 5 Stelle. Guardate, lo sappiamo benissimo, era semplicemente per darvi l'idea di qualcuno che sta cercando di parlare a quel mondo, mentre invece c'è un pezzo della politica cosiddetta tradizionale, quella tradizionalmente più legata a questo mondo, che evidentemente ha smesso di parlarci o non gli parla più con la stessa convinzione. Quindi è una questione, se vogliamo, di strategia elettorale e di atteggiamento verso questo mondo, e non solamente di sostanza e di contenuti, perché sui contenuti poi si può naturalmente discutere all'infinito. Rita ci chiama da Savona, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi di permettermi di parlare di un problema che penso riguardi molti professionisti. Cercherò di essere sintetica. Io ho 65 anni, sono pensionata statale con 40 anni di contributi e nel aprile 2008 ho deciso di utilizzare la mia laurea per fare la libera professionista, la psicologa. Ho aperto la partita IVA e ho usufruito del regime dei minimali, che andava benissimo pur avendo, anche perché io ho una pensione molto modesta, e il regime era perfettamente coerente con le difficoltà di avvio di un'attività che non si costruisce nel giro di pochi anni. Con la nuova normativa i minimali sono diventati ex minimali e io ho dovuto optare, le possibilità erano due: o chiudere, tenuto conto del giro modesto che avevo, oppure tentare di affrontare questa avventura con la nuova normativa. Io ho provato a tenere duro, nel senso che entro i primi 6 mesi valuterò come andranno le cose, ma tra studi di settore, cumulo dei redditi con la pensione, che ripeto è già modesta, e tutto quello che comporta il regime pur alleggerito degli ex minimali, non penso che non ce la farò. Non ce la farà. La mia commercialista ha detto che moltissimi altri professionisti come me hanno chiuso la partita IVA. E cosa faranno? Quello che io non vorrei fare, cioè lavorare in nero. Io fino a oggi, grazie ai benefici della legge sui minimali, ho lavorato volentieri, anche poco. Ho cercato di costruirmi una clientela, ma il tempo non è bastato, perché tra la crisi e il tipo di lavoro che faccio io ci vuole tempo. Pagavo le mie tasse, ero soddisfatta. Rita, chiarissima, mi scusi, la interrompo perché insomma mi sembra che abbia detto tutto quello che doveva dire, e vorrei sentire anche qualche altro ascoltatore e poi andiamo da Anna Soru. Felice dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Sì, grazie, buongiorno. Brevemente, mi raccomando. Sì, brevissimamente, sono stato 20 anni dipendente e 24 anni autonomo, piccolo professionista. Ritengo che i professionisti siano massacrati per due motivi. Primo, perché sfuggono all'abbraccio parassita dei sindacati. Secondo, perché possono guadagnare tanto e non si considera che hanno un impegno mentale e fisico a volte doppio del dipendente. Grazie. Grazie Felice, sentiamo anche Marco che ci chiama da Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve, sarò brevissimo, io ho 35 anni e vedo ad oggi la partita IVA come in realtà una forzatura contrattuale. Io credo che i numeri che diceva prima il professore siano in realtà facenti parte anche di tutta una parte di dipendenti che hanno 35 anni o più di alcuni lavori che hanno sostituito il contratto nazionale, esempio informatori scientifici col contratto nazionale dei chimici, architetti, con soluzioni a partita IVA dove sono su un anticipo provvisionale di 1000 euro, hanno un 50% di tasse e sono di fatto assolutamente dei lavoratori dipendenti. Dei lavoratori dipendenti a tutti gli effetti. In effetti nel libro si sottolinea anche questa questione della monocommittenza. Anna Soru, lei che dice da questo lato? Le chiedo di tirare anche un po' di somme di quel che abbiamo sentito negli ultimi minuti. Sì, allora, intanto riallacciando i miei precedenti interventi, la parte che io rappresento è la parte che è più dinamica del mercato del lavoro, del lavoro autonomo. Ed è stata colpita da un doppio pregiudizio, un pregiudizio di evasione innanzitutto e poi un secondo pregiudizio che è quello che ci vede tutti come finta partita IVA, adesso per così per rilasciarmi anche con il secondo. Il risultato di questo doppio pregiudizio è che abbiamo da una parte una contribuzione previdenziale altissima, come dicevo prima, e dall'altra parte anche una contribuzione fiscale molto alta. Se noi confrontiamo la situazione di uno di noi con un dipendente, la somma di contributi più fisco è per noi più alta che per un dipendente e in cambio però noi non abbiamo le stesse tutele che ha il dipendente. Questa è una cosa che non è nota a tutti, però io invito a farlo questo calcolo perché noi l'abbiamo fatto più volte e l'abbiamo evidenziato più volte. Proprio andando a verificare il netto, per noi il netto risulta più basso che per un dipendente. Ed è per questo che appunto stiamo lanciando tante campagne. La prima è quella per fermare i contributi, l'aumento dei contributi con la campagna Dicano 33, ma ne abbiamo anche altre sul fronte delle tutele. Per esempio noi in teoria avremmo diritto ad una minima tutela della malattia domiciliare, che però a tutt'oggi l'INPS non ci riconosce. Cioè, ci sono diversi soci che sono andati all'INPS chiedendo di avere l'indennità di malattia domiciliare, che peraltro è minima, che non è per tutti, ma anche in questi casi non è riconosciuta. Anche qua noi abbiamo lanciato una petizione proprio per raccogliere le firme su questo. Il discorso delle finte partite IVA ci sono, il libro di Ranci lo mette in evidenza, ha tentato anche una stima, ha visto che sono una quota significativa, intorno al 12%. Quindi c'è un 12% che è in questa situazione, è una situazione da affrontare, ce n'è un altro però 88% che non è in questa situazione e che viene colpita da una serie di provvedimenti che nascono con l'obiettivo di colpire le finte partite IVA. In particolare gli ultimi della legge Fornero. Che non servono in realtà perché sono facilmente aggirabili, molti casi, cioè dei casi in cui si vuole essere scorretti sono aggirabili, ma che creano delle complicazioni nelle situazioni in cui invece uno è una vera partita IVA, perché comunque il committente che vuole essere estremamente rigoroso inizia a guardare con sospetto un consulente se lo utilizza da più di un anno, perché teme che un domani possa essere poi creare le condizioni per una causa e quindi preferisce semmai rivolgersi ad una società di servizi, non a quello. Quindi noi sappiamo che c'è questo problema da affrontare, quello che chiediamo è di affrontarlo insieme, in modo da poter tenere presente quali sono tutti i punti di vista e poter capire di volta in volta quali sono le conseguenze negative che possono derivare da ognuno di questi interventi. Tornando al tema che abbiamo affrontato, col quale siamo partiti in questa trasmissione, e tornando a Dario Di Vico, vorrei capire da te, Dario, secondo te quando è il momento, c'è stato un momento nel quale Forza Italia e la Lega hanno smesso di parlare a questo mondo, in particolare non quello rappresentato dalla Soru nella fattispecie, ma al mondo che abbiamo sentito rappresentato da Grillo proprio nell'audio che abbiamo fatto sentire poco fa? E perché secondo te? Beh, semplicemente perché non sono riusciti a mantenere le promesse promesse che avevano fatto, perché non hanno accompagnato, diciamo, il consenso che gli è stato dato con un processo di crescita di questo mondo, perché teniamo presente che è giusto sostenere la condizione di disagio, poi però bisogna fare anche delle cose. Per esempio, io sono molto critico sul fatto che c'è scarsa tendenza ad aggregarsi. Ecco, quindi, come dire, il PDL e la Lega hanno fatto un doppio errore, sono stati, diciamo, poco fedeli alle promesse e anche poco pedagogici rispetto alla necessità di un mondo che deve crescere, perché poi la crisi rappresenta una sfida per tutti e non si può affrontarla con gli strumenti di ieri. Io poi vorrei dire una cosa, non so se stiamo chiudendo. No, assolutamente, assolutamente. Ah, e allora poi volevo fare un ragionamento successivamente in avanti, cioè che cosa fare da oggi in poi, perché altrimenti... Prego, volentieri. Io dico che secondo me a questo punto ci sono almeno tre temi sui quali va prodotto un salto di qualità, perché altrimenti rischiamo, come dire, di fare una geografia delle lamentele, diciamo. E sono tre cose. Uno, la rappresentanza. Io penso che le forme organizzate che in qualche maniera lavorano in questo mondo debbano costruire una coalizione, nel senso migliore del termine, una coalizione di interessi e anche di programmi, dove per i programmi io intendo anche quella crescita. Abbiamo perso Dario Di Vico proprio sulle proposte, vediamo se lo recuperiamo. 9 in punto. E abbiamo recuperato Dario Di Vico, stava insomma facendo quelle che sono le sue proposte, guardando al futuro per questo mondo, il mondo delle partite IVA. Si era parlato di rappresentanza, Dario, e poi? Poi sulla questione del welfare bisogna uscire, diciamo, dal monopolio dell'INPS, cioè bisogna trovare, adesso io dirò delle cose che sono un po' imprecise, ma perché più che altro voglio fare un passo in avanti, non ho ovviamente bacchette magiche. Bisogna trovare un meccanismo in cui, e il professor Ranci sostiene giustamente questa tesi, in cui il cosiddetto secondo pilastro, la previdenza integrativa, insomma, bisogna fare delle corsie preferenziali, diciamo, del secondo pilastro, mi scuso per l'eccesso di metafore, però qualcosa, perché altrimenti non si può tollerare questa situazione, insomma, non basta dire non bisogna passare dal 27 al 33, bisogna costruire delle cose alternative. Terzo punto, anche sulle forme societarie, probabilmente così come l'abbiamo intesa la partita IVA, a questo punto bisogna un po', tra virgolette, riformarla, trovare una strada per cui si facciano delle piccole società, insomma, anche sulla forma societaria, secondo me, bisogna fare un passo in avanti. Ecco, ripeto, sono cosciente di dire delle cose un po' imprecise, un po' circa, ma voglio solo sottolineare il fatto che, oltre alla giusta rappresentazione del disagio, bisogna sempre porsi il compito di fare un passo in avanti, e a questo punto, secondo me, questo passo in avanti va fatto, sennò vabbè, adesso ci sono le elezioni, ma dopo il 25 non è che ci si può più lamentare della politica, bisogna anche avanzare come capacità di proposta e di indirizzo. Stefano ci chiama dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, ci sente? Sì, sì, ti sento. Ecco. No, telefonavo giusto adesso che diceva bisogna avanzare, volevo intanto confermare che è vero che negli anni passati c'è stato sempre un continuo aumento della pressione fiscale, ma in realtà però non c'era un controllo, e questa era quella sorta di patto che dicevate, che è un patto scellerato, diciamo. E poi anche volevo dire questo, scusi, sono un po' emozionato perché no, ma le pare, non ho le mai pare telefonato. Le pare, prego. Volevo dire anche questo, che appunto bisognerebbe rinnovare questo patto dove invece tutti si dovrebbe pagare, tutti, però nello stesso tempo la pressione fiscale deve calare, perché altrimenti non si riesce ad andare avanti. È il patto che vorremmo tutti noi italiani, in realtà, non solamente il mondo delle partite IVA. Sentiamo anche Matteo che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, sono un cuoco ristoratore e l'altra sera ero proprio a Milano ad ascoltare il professor Ranci quando presentava il suo libro. Volevo dire, il problema di fondo è che la partita IVA oggi non è quella scelta ideale per chi vuole diventare imprenditore, è una scelta forzata dal mercato. Perché? Perché c'è una verità che anche l'altra sera e anche oggi non viene fuori, anzi un telespettatore prima l'ha detto, il costo del lavoro è elevato, voi pensate che addirittura ormai anche i cuochi vengono assunti con partita IVA, perché se io do 2.000 euro netti al mese a un cuoco, diventano 4.500 per quasi 15 mensilità, sono 70.000 euro, quindi il vero problema nel nostro paese è che questa scelta della partita IVA è una scorciatoia, perché sennò il mercato non ti prende più. Questo è il vero problema. Grazie Matteo. Professor Ranci, la stimolo su questo, anche se il tema che in parte toccavamo già prima, no? Voi calcolate in un 12% questa cifra, eh? La cifra di persone che opera in questo modo? Cioè che opera, diciamo, in un regime di chiamate le false partite IVA. Sì, ma io volevo, sulle false partite IVA, appunto, si è costruito un ragionamento negli ultimi mesi che in fondo appunto dimostra la scarsa interesse, la scarsa conoscenza di questa realtà, perché è vero che gran parte delle cosiddette false partite IVA non lo sono per scelta, ma lo sono perché sono state costrette ad accettare una condizione contrattuale difficile in cui ci sono forti costrizioni in cambio di una soluzione formale, che è quella di avere un contratto a prestazione in quanto partita IVA, che però non tutela quanto un lavoratore dipendente. Ma tutto questo è avvenuto non certo perché ci sia stata, anche se pure c'è, una spinta, diciamo, verso l'autoimprenditorialità da parte soprattutto di una componente importante delle giovani generazioni, ma è venuto perché i processi Professore, cosa invece che avveniva in passato, cioè in realtà la creazione di partita IVA in passato avveniva esattamente per quel motivo, per una spinta all'autoimprenditorialità che in questo paese è stata sempre fortissima. È stata fortissima e che ancora permane, però questa si è aggiunta negli ultimi anni in conseguenza delle trasformazioni nei modi di lavorare delle imprese, soprattutto delle imprese e delle società che producono servizi, nuove forme di organizzazione che hanno portato a trasferire fuori dall'organizzazione in contratti con partite IVA buona parte delle prestazioni che precedentemente erano svolte dentro la struttura. Questo processo, che viene chiamato dagli esperti di esternalizzazione di attività importanti, anche dei cosiddetti core business, cioè anche delle attività che sono fondative delle società di servizio, cioè quindi di affidarsi più a forme di consulenza che a lavoro dipendente, ha prodotto in parte questo fenomeno delle false partite IVA, che false non sono, nel senso che operano dentro un mercato che si è costituito in questo modo e che siamo pronti a scommettere è destinato a crescere moltissimo anche nei prossimi anni. Quindi questa idea di chiamarle false, in un certo senso, denota che di nuovo quasi come se si colpevolizzasse una partita IVA di voler nascondere qualcosa della propria attività, quando questa attività in realtà in buona parte avviene dentro un contesto in cui la partita IVA magari è monocommittente, magari deve lavorare in stretto coordinamento con altri lavoratori, in rete, come si suol dire, accettando dei vincoli che forse limitano l'autonomia della partita IVA, ma che in realtà oggi è il modo in cui spesso si lavora. Brevissimamente, Anna Soru, sulle tre idee a flash lanciate da Dario Di Vico: rappresentanza, welfare, forme societarie. Brevissima, mi raccomando. Sulla coalizione siamo perfettamente d'accordo, è uno dei nostri principali obiettivi, quello di promuovere la coalizione fra tutti coloro che sono nella nostra situazione, ed è per questo che infatti noi abbiamo contatti anche con gli altri soggetti che sono entrati nella rappresentanza del nostro mondo negli ultimi anni. Welfare, noi abbiamo avanzato una prima proposta di opting out dall'INPS per quanto riguarda la malattia, proprio perché abbiamo verificato che l'INPS non ci garantisce una adeguata copertura nelle situazioni di malattia, noi chiediamo di poter provvedere con una forma mutualistica alla copertura della nostra malattia, quindi non versare più per quanto riguarda la malattia all'INPS e provvedere in proprio. Sicuramente questo è fondamentale anche per le pensioni, ma non è pensabile che ci sia uno spazio per una previdenza privata con una pensione obbligatoria così elevata, ripeto 27%, che dovrebbe diventare 33%, quindi anche qua si potrebbe ridurre. 20 secondi sulle forme societarie. Sulle forme societarie, ecco, in generale chiediamo qualche cosa per incentivare la crescita. Le forme, le modalità fiscali utilizzate finora come il regime dei minimi non sono state utilizzate per favorire la crescita, ma soltanto per garantire una sopravvivenza a delle situazioni abbastanza marginali. Grazie ad Anna Soro, presidente di ACTA, Costanzo Ranci, Dario Di Vico, grazie a Franco Piantanide in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, Rosa e Sabrina al centralino, Costantino che ci scrive su Twitter: non facciamo campagna per Grillo, ma le pare che facciamo campagna per Grillo, abbiamo solo detto che si è rivolto a questo mondo. Ci sentiamo domani.